Gentili ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti all'ascolto del nostro programma. Desidero iniziare questa trasmissione con un'affermazione che potrebbe costituire l'anima di molte riflessioni che ho udito in merito a Dio. E cioè, appena l'uomo parla di Dio, si accorge con terrore di parlare di tutt'altro. Non è solo un'affermazione questa, ma anche una realtà. Infatti, in parte è stata pure la mia esperienza. Dopo 35 anni di lettura biblica, mi sono reso conto di non aver capito nulla di una verità fondamentale in relazione alla persona di Gesù. In questo lasso di tempo ho studiato gli argomenti più svariati, ho compreso le dottrine più importanti, che ancora oggi professo, ma vi era un velo costante davanti ai miei occhi ad impedirmi di comprendere la ricchezza del messaggio di Dio, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo. Alcune affermazioni degli Apostoli riuscivano oscure alla mia mente. Ve ne propongo due. La prima è di Paolo ed è riferita al popolo di Israele. Ascoltiamo. E non fornichiamo, come alcuni di loro fornicarono, per cui ne caddero in un giorno 23.000. E non tentiamo Cristo, come alcuni di loro lo tentarono, per cui perirono per mezzo dei serpenti. La seconda affermazione la troviamo nella lettera agli Ebrei ed è riferita a Mosè. Per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio, che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori di Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Gli autori di queste affermazioni si riferiscono ad episodi dell'Antico Testamento. Secondo Paolo, gli israeliti nel deserto tentarono Cristo. Per l'autore della lettera agli Ebrei, Mosè scelse la vergogna di Cristo anziché i tesori di Egitto. Con quale autorità e conoscenza gli apostoli potevano parlare della presenza di Cristo nell'Antico Testamento? Le loro affermazioni sono allegoriche, tipologiche o vanno prese alla lettera? Dove riscontriamo la presenza di Cristo nell'Antico Testamento e soprattutto al tempo di Mosè? Quando leggiamo l'Antico Testamento, vi scorgiamo una generica teofania o una precisa cristofania? Ho risolto questi interrogativi quando ho studiato il nome della divinità di Israele dei cristiani, cioè il tetagramma, composto da quattro consonanti, una I, un H, una W e un H. Mi sono reso conto che il tetagramma è la chiave di lettura o la password per una giusta comprensione ed interpretazione della parola eterna di Dio. E, come la password è sia un lasciapassare che permette l'entrata o la circolazione in ambienti ai quali possono avere accesso esclusivamente persone autorizzate, è altresì un mezzo di protezione. Così è del nome della divinità di Israele e dei cristiani. Mediante la sua persona possiamo avere accesso alla comprensione della parola di Dio. Senza di esso ci è preclusa la possibilità di comprendere i misteri di Dio. Le riflessioni che faremo nel corso delle nostre trasmissioni sono riflessioni che ogni persona, diventando figlio di Dio per la fede in Gesù, deve conoscere. Esse costituiscono la base della fede cristiana. Senza questa conoscenza, nessuno può definirsi cristiano. Coloro che non hanno conosciuto e compreso chi è Gesù sono destinati, prima o poi, a lasciarsi sedurre da ogni vento di dottrina. Purtroppo, i figli di Dio nel corso dei secoli si sono persi in grandi e sterili discussioni teologiche, tralasciando il loro vero obiettivo: spiegare al mondo e ai credenti chi è Gesù Cristo. Troviamo credenti superlativamente ferrati in molte dottrine, ma la persona di Gesù rimane ancora troppo oscura o, peggio, banalizzata. È urgente quindi recuperare e riaffermare il patrimonio comune e la comune identità cristiana che ha come perno la persona del Salvatore. Chi non ha questo obiettivo ha fallito lo scopo per cui è stato creato, cioè conoscere il Signore Gesù. Le riflessioni che faremo nel corso delle nostre trasmissioni hanno dello straordinario, pur essendo nello stesso tempo solamente l'ABC della fede cristiana. Se quello che impareremo è nuovo o originale, ciò non dipende dal contenuto del messaggio, ma dal fatto che i cristiani nel corso dei secoli hanno abbandonato le verità elementari del cristianesimo. Un giorno assistetti alla trasmissione di un programma di giochi, nell'ambito del quale venivano poste innumerevoli domande a concorrenti preparati, laureati, professionisti. Per un periodo furono poste domande sulle tabelline e non pochi concorrenti sbagliarono, mentre molti altri furono titubanti. Queste persone, che molto probabilmente sapevano usare il computer ed erano competenti nel loro lavoro, avevano però dimenticato ciò che avevano imparato alle elementari. Questo è successo ai cristiani di oggi. Si preferisce discutere su questioni marginali, si combatte su questioni concernenti l'etica, mentre la persona di Gesù viene considerata solo nel suo ruolo di salvatore dalle pene eterne. Molte verità che andremo a considerare sono già state in parte declamate da alcuni padri della Chiesa, ma si tratta di voci isolate, tanto isolate e atipiche, che i cristiani hanno preferito seguire la strada larga delle proprie idee piuttosto che sforzarsi di apprendere ciò che Dio volesse. Cerchiamo quindi di recuperare alcune dottrine elementari su Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Per imparare dalla parola di Dio, cari ascoltatori, noi dobbiamo innanzitutto prendere sul serio la nostra ignoranza. Dobbiamo sradicare alcuni preconcetti e luoghi comuni. Gesù, dicendo che il Padre ha rivelato le verità profonde ai piccoli, non intese fare l'apologia dell'ignoranza, ma affermare che la conoscenza della profondità di Dio è riservata a coloro che hanno un cuore puro. Se l'intelligenza non serve a comprendere le cose di Dio, ancor meno serve l'ignoranza. Perciò l'uso corretto delle scritture presuppone una profonda conoscenza del loro contenuto. Conoscenza che non può essere acquisita se non mediante un serio impegno continuativo nell'esaminare attentamente i testi che stiamo studiando. Noi dobbiamo sempre ricordare che stiamo leggendo un testo, o meglio, una serie di libri, il più giovane dei quali ha quasi 2000 anni. E 2000 anni sono pari a 50 generazioni di 40 anni l'una. Leggere un testo vecchio di 2000 anni comporta tutta una serie di problematiche non indifferenti. Noi siamo convinti di comprendere ciò che leggiamo solo perché diamo alle parole o ai fatti descritti nella Bibbia un'interpretazione secondo la nostra cultura. Come esempio, possiamo prendere in considerazione l'affermazione di Gesù, secondo la quale la sua presenza nell'Antico Testamento è attestata nei Salmi. Il lettore comune, che non conosce bene il linguaggio biblico, né il suo contenuto storico e culturale, pensa che Gesù si riferisca solo ai Salmi, che troviamo nel libro omonimo. Ai tempi di Cristo, sotto il nome Salmi, era intesa la raccolta che comprendeva Proverbi, Giobbe, Lamentazioni, Neemia, Daniele, Cronaca e ovviamente i Salmi. Questo solo esempio ci fa comprendere come sia difficile interpretare la parola di Dio nel suo vero significato. Del resto, se non fosse così, non ci sarebbero poi tante interpretazioni su testi che, apparentemente, sono inequivocabili. Inoltre, non dobbiamo mai dimenticare che stiamo leggendo dei libri che appartengono, se non siamo giudei, ad un altro popolo, cioè a quello ebraico. Anche leggendo il Nuovo Testamento, cari ascoltatori, dobbiamo tenere presente che abbiamo a che fare con scritti, cioè Vangeli e lettere, che non sono indirizzati direttamente a noi. È come se io scrivessi una lettera a mia moglie e un cinese volesse interpretare ogni mia parola, senza conoscere né me né mia moglie e né la mia cultura. Avrebbe delle notevoli difficoltà di carattere storico, culturale e linguistico. Se scrivo a mia moglie che ho portato mio padre dei crisantemi, dal momento che i cinesi offrono i crisantemi come regale alle loro fidanzate o mogli, mentre noi li portiamo davanti ai morti, come interpreterà il nostro cinese questo mio scritto? Penserà che mio padre sia vivo e che io gli ho voluto mostrare il mio amore. Se vogliamo invece prendere un esempio biblico, consideriamo il significato delle parole di Gesù quando disse che Cesare era una volpe. Con la nostra cultura, noi, e io per primo, associamo la volpe alla furbizia. Ma con quell'appellativo Gesù non voleva dichiarare che Erode fosse un astuto, piuttosto che egli era crudele. L'associazione del concetto di furbizia con la volpe ci viene dalla cultura medievale. È proprio inutile che io mi ostini a interpretare la scrittura con la mia cultura. Devo fare uno sforzo per calarmi nella cultura ebraica. Dunque, affinché la figura di Gesù possa essere compresa pienamente, saremo costretti a fare un percorso lungo, ma inevitabile. In questa ricerca, per conoscere Gesù Cristo, non daremo nulla per scontato, se non che la Bibbia è la parola di Dio, divinamente ispirata nei suoi testi originali. Dal momento che la fede cristiana è la fede che ha le sue radici in un'altra fede, cioè in quella ebraica, noi siamo costretti ad iniziare l'indagine da quest'ultima, cioè dai libri dell'Antico Testamento. Per alcuni credenti sembra una cosa inutile e sorpassata leggere l'Antico Testamento, almeno per due ragioni. La prima perché è composto di regole e costumi ebraici non comprensibili alla nostra cultura occidentale. La seconda perché Cristo e il suo insegnamento sono la realtà di quello che era figura dell'antico. Tutto questo è vero, ma vi sono tre motivi fondamentali perché la lettura dell'Antico Testamento non è solo valida, ma indispensabile. Innanzitutto, perché l'Antico Testamento è parola di Dio. Infatti Gesù spesso citava l'Antico Testamento, dando ad esso la stessa autorità delle sue parole. E poi, per una ragione cronologica. Storicamente parlando, il Nuovo Testamento è il seguito dell'Antico. Gli avvenimenti descritti nei Vangeli e nelle Epistole si possono capire solo tenendo presente quelli descritti nell'Antico. Cercare di capire il Nuovo Testamento senza aver letto l'Antico è come vedere un film dal secondo tempo. Infine, è indispensabile studiare l'Antico Testamento per una ragione dottrinale. Le dottrine del Nuovo Testamento sono comprensibili solo se si tiene presente la verità rivelate nell'Antico Testamento. È impossibile capire l'universalità del peccato se non si conosce il dramma dell'Eden, come non è possibile, come vedremo nel corso delle nostre trasmissioni, capire la divinità di Gesù se egli non è la divinità di Israele. Non ci resta quindi, cari ascoltatori, che iniziare nella prossima trasmissione a considerare i nomi della divinità di Israele. Ciao a tutti e a risentirci con rinnovato interesse. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti al nostro appuntamento. Poiché tutta la scrittura ha per centro la persona e l'opera di Gesù Cristo, continuiamo oggi a considerare la persona del Figlio di Dio nell'Antico Testamento. Oggi parleremo dei nomi della divinità di Israele e dei cristiani. Qualcuno potrebbe pensare che questo esame sia insignificante, che sia una speculazione inutile, ma non può esserlo, perché alcune Bibbie, prima del testo sacro, hanno una prefazione nella quale gli editori si preoccupano di spiegare come sono stati tradotti i nomi di Dio. Questo significa che il lettore, prima di leggere la parola di Dio, deve saper distinguere i nomi della divinità di Israele e dei cristiani, divinità che conosceranno leggendo il testo sacro. Facciamo ora una breve premessa. Da quando i primi discepoli hanno creduto in Cristo sono passati 2000 anni. Nel corso dei secoli i seguaci di Gesù si sono attribuiti o sono stati contraddistinti secondo svariate denominazioni: cristiani, ortodossi, protestanti, cristiani evangelici, pentecostali, battisti, valdesi e così via. Ma come professavano i primi seguaci di Cristo la loro fede nel loro Salvatore, dato che non vi erano tutte queste denominazioni? Che cosa affermavano i primi cristiani, testimoniando della loro fede in Gesù? Tutti gli studiosi sono d'accordo nel riconoscere che la professione di fede dei primi cristiani era: Gesù Cristo è il Signore. Vogliamo ascoltare ora la lettura di alcuni testi. La prima, nella prima lettera ai Corinzi. Perciò vi faccio sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice Gesù è anatema, e nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Ascoltiamo la lettura nella lettera ai Filippesi. Ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Ed ora ascoltiamo la lettura nel Libro degli Atti al capitolo 2. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Infine, ascoltiamo sempre nel Libro degli Atti al capitolo 10. Questa è la parola che egli ha diretta ai figli di Israele, portando il lieto messaggio di pace per mezzo di Gesù Cristo. Egli è il Signore di tutti. Che cosa volevano intendere i primi cristiani attribuendo a Gesù il titolo di Signore? Che cosa vogliamo intendere noi oggi quando affermiamo che Gesù è il Signore? Non si può rispondere a queste domande senza prendere in esame il valore dei nomi nella cultura ebraica. Nella cultura semitica, nel cui contesto Dio si è rivelato, un nome serviva per indicare la peculiarità di una determinata persona. Abbiamo alcuni esempi nella scrittura che confermano il rapporto stretto esistente fra il nome e la persona. Il primo uomo si chiama Adamo, il cui significato in ebraico è terra, suolo. Infatti egli fu tratto dalla polvere, dalla terra. La prima donna, Eva, il cui nome significa vita, fu chiamata in tal modo da Adamo perché fu la madre del genere umano. Adamo ed Eva chiamarono un figlio Set, perché era nato dopo l'assassinio di Abele. Infatti il suo nome significa messo al posto. L'Eterno cambiò il nome di Abramo, che significa padre elevato, in Abrahamo, cioè padre di moltitudini. In effetti, Abramo divenne il capostipite delle razze ebraica ed ismaelitica. Giacobbe, che significa soppiantatore, fu chiamato così perché la nascita stringeva stretto il calcagno del fratello Esaù. Esaù, che significa peloso rosso, ebbe questo nome perché quando nacque era tutto rosso e ricoperti di pele. Questi sono alcuni esempi che dimostrano che, per gli ebrei, il nome serviva per caratterizzare una determinata persona. Quest'usanza era ancora attuale al tempo di Gesù e degli Apostoli. Gesù cambierà il nome di Simone in Pietro. Saulo da Tarso verrà chiamato Paolo, cioè piccolo, molto probabilmente perché basso di statura. Molti cristiani nel primo secolo avevano due nomi, quello ricevuto alla nascita e quello assegnatoli dopo la conversione. Questo particolare ci può aiutare a comprendere meglio le affermazioni della scrittura, quali per esempio quella che troviamo nel libro dell'Apocalisse al capitolo 2. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare della manna nascosta e gli darò una pietruzza bianca e sulla pietruzza sta scritto un nuovo nome che nessuno conosce, se non colui che lo riceve. Ogni cristiano in cielo avrà un nome che rispecchierà una sua caratteristica. Com'è possibile ciò? Potranno esistere tanti nomi quante sono le persone? Per Dio nulla è impossibile. Se è possibile che ogni fiocco di neve sia diverso da un altro, e di neve ne è venuta e ne viene e ne verrà ancora, niente di strano che Dio abbia un nome unico per ogni persona. I nomi di Dio, che andremo quindi ad esaminare, devono essere considerati in questa luce. Dunque, ora prendiamo in esame i nomi della divinità di Israele. Ogni cosa, sia visibile che invisibile, abbiamo detto che ha un nome. Animali, piante, oggetti, angeli, sentimenti. Il nome serve per identificare e distinguere una cosa rispetto ad un'altra. Anche l'essere supremo, a cui si riferiscono tutte le religioni, ha un nome. Questo nome, ovviamente, varia da religione a religione. E non vi è dubbio che gli uomini gli abbiano assegnato un nome per attribuirgli una identità. Per i testimoni della torre di guardia, per esempio, il nome di Dio è Geova, mentre per i musulmani il nome di Dio è Allah. Anche la divinità degli ebrei aveva un nome, anzi, dei nomi. E i nomi più comuni nella Bibbia ebraica, per definire colui che si è rivelato a Mosè e ai profeti, sono tre. Vi è il nome Adonai, che ricorre circa 600 volte, il nome Elohim, che ricorre circa 2500 volte. Poi vi è il tetagramma, composto da quattro lettere, una I, una H, una W e una H, che ricorre circa 6500 volte, se si considera ovviamente la forma abbreviata del nome. Queste 9.000 citazioni dei nomi del Creatore non possono essere trascurate. Servendo un nome per distinguere una cosa da un'altra, è evidente che i nomi della divinità di Israele abbiano un loro proprio significato. Generalmente essi vengono considerati sinonimi, ma questo è un errore che impedisce di comprendere correttamente la parola di Dio. In effetti, questi nomi hanno delle rispettive peculiarità. Prendiamo in esempio il nome comune Adonai. Questo nome è la forma plurale di Adon, cioè il Signore, adoperata decine di volte. Un esempio lo troviamo nel libro dell'Esodo, al capitolo 23. Tre volte all'anno tutti i tuoi maschi compariranno davanti al Signore, l'Eterno. Il suo significato più stretto del termine Adonai in ebraico antico è miei signori, nel senso di padrone. Adonai o Adon è un appellativo comune, cioè attribuibile anche ad un uomo e non soltanto Dio. Ecco cosa leggiamo in Esodo al capitolo 32. Aronne rispose: l'ira del mio signore Adon non si accenda. Tu stesso conosci questo popolo e sai che è inclinato al male. Dobbiamo saper distinguere quindi l'appellativo proprio riferibile a Dio da quello comune riferibile agli uomini. Prendiamo in esame ora il nome generico Elohim. Come abbiamo detto, Elohim è un nome generico che ricorre circa 250 volte. In ebraico la forma del nome Elohim è al plurale e si dovrebbe tradurre, quando è riferito al Dio di Israele, di un plurale generico. Una prova che il nome Elohim è plurale, sia quando in ebraico troviamo Elohim riferito alle divinità straniere. I traduttori rendono il termine con dei, come nel libro del Deuteronomio capitolo 5. Non avrai altri dei davanti a me. Oppure come al capitolo 6. Non seguirete altri dei fra gli dei dei popoli che vi circondano. Anche la traduzione interlineare nell'episodio del vitello d'oro è significativo. Ascoltiamo. Ora il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, si radunò intorno ad Aronne e gli disse: Orsù, facci Elohim che vadano davanti a noi. I due nomi plurali Adonai ed Elohim rendono l'idea che la divinità di Israele dei cristiani nel suo seno sia plurale. Il termine El, cioè Dio, viene usato di solito in relazione ad uno degli attributi della divinità degli ebrei. Così troviamo dei nomi composti come El Elyon, cioè l'Iddio Altissimo, El Olam, cioè l'Iddio per sempre, o El Shaddai, cioè l'Iddio Onnipotente. Ritengo molto appropriata la definizione del termine Elohim che troviamo in alcune Bibbie. L'ebraico Elohim è una parola con terminazione al plurale che indica gli dei delle nazioni pagane, ma in altri contesti indica il Dio unico di Israele. Oltre a questo indizio, anche alcuni passi dell'Antico Testamento ci inducono a considerare un concetto di molteplicità all'interno dell'unica divinità, fino a scorgere nel Nuovo Testamento che Dio si manifesta in tre persone. Non vi è dubbio che il nome Elohim, come del resto ogni altro nome, ha la sua importanza per comprendere la divinità di Israele e dei cristiani. Ma il nome che può chiarire in modo inequivocabile la divinità giudeo-cristiana è certamente Yahweh, il tetagramma, cioè il nome proprio. Ma poiché il tempo a nostra disposizione è ormai terminato, prenderemo in esame nella prossima trasmissione il sacro tetagramma e il termine Adonai. Che ognuno di noi possa confessare Gesù Cristo quale vero Dio, quale nostro Signore e Redentore, così come si è rivelato nella Bibbia, l'infallibile parola di Dio. Amen. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che la vostra fede in Cristo sia ferma, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo. Continuiamo oggi le nostre riflessioni in merito a Gesù Cristo, il Figlio di Dio, quale si è rivelato nell'Antico Testamento. Abbiamo preso in esame che la divinità di Israele dai cristiani ha tre nomi principali. Adonai, nome comune, che significa miei signori, Elohim, nome generico, il cui significato è propriamente di. Infine vi è il nome proprio formato da quattro consonanti, una I, un H, una W e un'altra H. Queste quattro consonanti nell'Antico Testamento diventano l'unico vero e proprio nome personale della divinità di Israele e dei cristiani. A queste quattro consonanti venne dato il nome di tetagramma, parola coniata per la prima volta dal filosofo Filone di Alessandria. La parola tetagramma deriva dal greco tetra, cioè quattro, e gramma, lettera. La vera pronuncia di questo nome è andata perduta, perché il tetagramma era ed è considerato dagli ebrei un nome troppo sacro per essere pronunciato. Inoltre, è impossibile risalire alla vera pronuncia del tetagramma perché nell'originale ebraico mancavano le vocali, che furono aggiunte dai masoreti solo nel secolo VI d.C. Gli ebrei, incontrando nel testo sacro il tetagramma, di solito leggevano Adonai. Così finirono per aggiungere al tetagramma le vocali di Adonai, cioè E-O-A, e ne risultò Geova. Ma la lettura corretta del nome, secondo gli ebrei, è Yahweh. Nel corso delle nostre trasmissioni useremo appunto questa lettura. Ci si può chiedere perché alcuni traduttori iniziano il tetagramma con la Y o Y, mentre altri con la iota. Ciò è dovuto al problema di traslitterazione. La prima lettera del tetagramma è una I, che in ebraico è una consonante. Poiché in italiano la I è invece una vocale, la lettera che più si addice alla I come consonante è o la Y o la iota. I traduttori scelgono la lettera che loro più aggrata. I traduttori della Bibbia rendono questi tre nomi del Creatore, della divinità di Israele, in vari modi. Nelle nostre trasmissioni useremo la versione della Nuova Diodati, la divisione 1991, che ci sembra la più appropriata, non perché sia la migliore, ma perché fa distinzione dei tre nomi della divinità di Israele. In effetti, essa ha reso il termine Adonai con Signore, il termine Elohim con Dio e il tetagramma, cioè Yahweh, con Eterno. Vi sono altre traduzioni che fanno distinzione dei nomi della divinità di Israele, come per esempio la versione riveduta in testo originale del dottor Giovanni Luzzi e quella del monsignor Salvatore Garofalo, tanto per citarne due. Dove si trova il tetagramma, la Bibbia Luzzi traduce Eterno, mentre il Garofalo traduce Yahweh. Le citeremo di tanto in tanto. Questa distinzione dei nomi è indispensabile per comprendere il messaggio di Dio. Ora leggeremo la parola di Dio per far notare come la Bibbia faccia del continuo distinzione dei nomi della divinità di Israele e dei cristiani, e questo non a caso, come prenderemo poi in esame in altre trasmissioni. Gli autori biblici erano ispirati anche quando usavano un nome anziché un altro in merito alla divinità di Israele. Ascoltiamo ora la lettura del primo versetto della Bibbia, dove troviamo il nome generico Elohim. Nel principio Dio, cioè Elohim, creò i cieli e la terra. Ascoltiamo ora invece la lettura di un versetto nel libro della Genesi, al capitolo 15, riferito ad Abramo, dove compare il nome proprio Yahweh. Ed egli credette all'Eterno, cioè Yahweh, che glielo mise in conto di giustizia. A volte noi troviamo questi due nomi associati e per la prima volta sono citati nel libro della Genesi al capitolo 2 e versetto 4. Queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati, nel giorno che Yahweh Elohim fece la terra e i cieli. Tenendo presente l'originalità dei due nomi in ebraico, noi dobbiamo comprendere questa espressione nel seguente modo. Queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati, nel giorno che Yahweh dello ID, o la divinità, fece la terra e i cieli. Leggiamo ancora nei versetti 7-8 nel libro della Genesi al capitolo 2. Allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi l'Eterno Dio piantò un giardino in Eden, ad oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. Anche in questo caso dobbiamo leggere che Yahweh, dello ID, formò l'uomo e piantò un giardino in Eden. Quando leggiamo il tetagramma seguito da Elohim, la scrittura precisa che colui che ha operato è, con riguardo alla divinità espressa al plurale, Yahweh, nella sua specificità personale. Come poi prenderemo in esame, questo Yahweh creatore è Cristo, colui che è in seno alla Deità, cioè agli Elohim. La libertà con il quale i traduttori hanno tradotto i nomi di Dio ha prodotto più confusione di quanto non si pensi. Quando troviamo il tetagramma seguito da Elohim, cioè i due nomi di Dio, tradurre uno dei due nomi con Signore, come rendono alcune Bibbie, e cioè Dio il Signore, confonde il lettore e gli impedisce di prepararsi per una giusta comprensione della rivelazione di Gesù Cristo. Come vedremo, l'espressione Dio il Signore dovrebbe essere scritta al contrario, se si vuole rispettare il testo ebraico, cioè il Signore Dio. In effetti, nella 70, troviamo scritto Kyrios o Theos, cioè Signore il Dio. Anche nella Bibbia inglese troviamo Lord God, Signore Dio, mentre in quella francese di Louis Segond leggiamo l'Eternel Dieu, cioè l'Eterno Dio, attribuendo in tal modo il termine Eterno a Yahweh. Prendiamo ora in esame il nome comune Adonai. Alcune Bibbie, comprese la traduzione della CEI, con il termine Signore riportano il nome comune Adonai, nello stesso modo con il quale traducono Elohim. Anche se la nuova riveduta rende Yahweh con Signore in corsivo e maiuscolo, questo genere di traduzione non aiuta, ma introduce un equivoco di fondo, in quanto si usa il termine Signore per tradurre sia il nome comune ebraico Adonai, sia il nome proprio della divinità di Israele, cioè Yahweh. Chi non ha una certa preparazione biblica non può cogliere le sfumature dei tre termini Yahweh, Dio e Signore. Il Salmo 110 ne è una prova. La Bibbia Nuova Diodati traduce: «L'Eterno dice al mio Signore, siedi alla mia destra finché io faccia dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi». La Nuova Riveduta, traducendo «Il Signore ha detto al mio Signore», servendosi del semplice corsivo per contraddistinguere i due nomi di Yahweh e Adonai, distinzione tra l'altro che non è possibile fare, per esempio, in una trasmissione radiofonica, in realtà non facilita al lettore la comprensione della sfumatura del linguaggio biblico. Prendiamo anche, come esempio, la lettura nella riveduta di Esodo al capitolo 20 e versetto 7. Non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, in vano. È molto difficile per chi legge comprendere l'ordine di Dio. Se non devo pronunciare il nome del mio Signore, che è il mio Dio, non capisco il divieto se non conosco quale sia questo nome che non devo pronunciare. Se invece fosse stato tradotto come in ebraico «non pronunciare il nome di Yahweh, Dio tuo, in vano», so che cosa non devo pronunciare in un modo in vano, e cioè il nome di Yahweh, che nel Nuovo Testamento è riferito a Cristo. Inoltre, quando questo testo viene riportato negli scritti, spesso non è scritto in corsivo, togliendo così l'opportunità di cogliere il nome di Yahweh. In un discorso, come abbiamo detto, è impossibile cogliere la differenza dei due nomi se si usa sempre il termine Signore. Troviamo il termine Signore riferito alla divinità di Israele e dei cristiani 7 volte nel Salmo 86, dove il salmista riconosce di dipendere totalmente nell'afflizione da Dio. Ascoltiamo. Abbi pietà di me, o Signore, perché grido a te tutto il giorno. Rallegra il tuo servo, perché a te, o Signore, elevo l'anima mia. Poiché tu, o Signore, sei buono e pronto a perdonare e usi grande benignità verso tutti quelli che ti invocano. Anche in questi casi la parola Signore non è un sinonimo di Yahweh, come si potrebbe pensare. Il salmista si rivolge alla sua divinità quale padrone, non lo invoca col suo proprio nome, ma con un nome che indica la qualità di colui che governa il mondo e le situazioni della vita. Troviamo il nome comune Adonai anche nel seguente brano, cioè nel libro della Genesi al capitolo 18. Allora Abramo riprese e disse: ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore, benché io non sia che polvere e cenere. Abramo in questa occasione sta parlando con l'Eterno e poiché gli sta chiedendo qualcosa di molto importante, si rivolge a lui come Signore, cioè come colui che ha tutti i diritti di dire di no. E ancora nel libro di Isaia, al capitolo 7, leggiamo le seguenti parole. Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. Il profeta presenta l'Eterno come colui che ha autorità sugli eventi della vita. Ascoltiamo ora la lettura nel libro dell'Esodo, quando Mosè è alla presenza di Yahweh e si rivolge a lui come l'Adonai, cioè il padrone. De, Signore, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, venga il Signore in mezzo a noi, perché questo è un popolo dal collo duro. Perdona la nostra iniquità e il nostro peccato, e prendici come tua eredità. Yahweh aveva già rivelato la sua personalità a Mosè, e l'uomo di Dio accetta tale rivelazione chiamandolo padrone. Infine, ascoltiamo il profeta Malachia. Un figlio onora il padre e un servo il suo signore. Se dunque io sono padre, dov'è il mio onore? E se sono signore, dov'è il timore di me? Dice l'Eterno degli eserciti. Tramite il profeta, Yahweh comanda di essere trattato almeno come ci si comporta con un padrone. Questo è dunque il significato del termine Adonai. Ma vi sono, cari ascoltatori, altre sfumature da cogliere nei nomi della divinità di Israele e dei cristiani e che prenderemo in considerazione nella prossima trasmissione. Ciao a tutti e a risentirci presto. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, nostro Signore. In questa trasmissione continuiamo le nostre riflessioni in merito ai nomi della divinità di Israele e dei cristiani. Per togliere ogni eventuale dubbio, desidero specificare che queste riflessioni in merito ai nomi di Dio non sono speculazioni o una eventuale fissazione da parte mia di voler cavillare su cose inutili, anche perché gli editori di alcune Bibbie, nella sezione introduttiva al testo sacro, si preoccupano di specificare al lettore come sono stati tradotti i nomi della divinità di Israele e dei cristiani. Mi rendo conto che riflessioni del genere potrebbero sembrare noiose e forse inutili, ma ho la ferma convinzione, come tutti coloro che ritengono la parola di Dio ispirata parola per parola, che se gli autori sacri sono stati ispirati ad usare un nome anziché un altro, vi è una ragione. Proprio perché un nome esprime una peculiarità, ritengo doveroso dare spazio all'aspetto del valore che hanno i nomi della divinità, anche perché nel tetagramma c'è la persona di Cristo. Abbiamo considerato, nelle trasmissioni precedenti, che i nomi più usati per la divinità di Israele e dei cristiani sono tre: Elohim, Adonai e il tetagramma, che vengono tradotti nella Bibbia Nuova Diodati con Dio, Signore ed Eterno. Abbiamo preso in esame questi tre nomi separatamente ed ora vogliamo leggere nella parola di Dio alcune espressioni dove possiamo trovare i tre nomi riuniti in una sola proposizione. Nel libro dell'Esodo leggiamo l'ordine preciso di Yahweh. Tre volte all'anno comparirà ogni vostro maschio davanti al Signore, l'Eterno, Dio di Israele. Ancora, nel profeta Amos, noi leggiamo: perciò, così dice l'Eterno, Dio degli eserciti, il Signore, in tutte le piazze ci sarà lamento e in tutte le strade si dirà ahimè, ahimè. Infine, nel Salmo 69, abbiamo questa preghiera: non siano confusi per causa mia quelli che sperano in te, o Signore, Eterno degli eserciti. Non siano svergognati per causa mia quelli che ti cercano, o Dio di Israele. Da queste considerazioni emerge, in modo evidente, come gli ebrei si rivolgessero alla loro unica divinità con nomi diversi. Abbiamo anche due espressioni nella parola di Dio in cui si aggiunge il nome comune Signore ai due nomi propri del Creatore. Riguardo al nome Elohim, abbiamo Signore Dio, e questo nel Salmo 86. Io ti loderò, Signore Dio mio, con tutto il mio cuore. Riguardo invece al nome Yahweh, abbiamo Signore Eterno, e questo lo possiamo vedere nel libro del profeta Amos. Poiché il Signore l'Eterno non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Questo accostamento di nomi, cari ascoltatori, ha lo scopo di mettere in evidenza aspetti diversi della personalità della divinità di Israele e dei cristiani. Ciò che non deve sfuggire è che il nome comune Adonai, che qualifica l'essere divino, è attribuito sia a Yahweh e sia a Elohim. A proposito del termine Adonai, poiché alcune Bibbie traducono il tetagramma con Signore, come il termine Adonai, i traduttori sono stati costretti a cambiare addirittura i vocaboli nei passaggi in cui il tetagramma è seguito o preceduto dal termine Adonai, mettendo il termine Dio al posto del tetagramma. E questo centinaia di volte. Un esempio lo possiamo vedere nella traduzione del passo del libro dell'Esodo, al capitolo 34 e versetto 23. Ecco cosa leggiamo nella Nuova Riveduta. Tre volte all'anno ogni vostro maschio comparirà alla presenza del Signore, Dio, che è il Dio di Israele. Nel testo ebraico, invece, troviamo il tetagramma, cioè Yahweh, che la Riveduta non riporta e traduce con Dio. Questo non mi sembra che rispetti il testo sacro. Altre volte, invece, la Nuova Riveduta non evita la ripetizione e traduce con il termine Signore sia il tetagramma che il termine Adonai. Ascoltiamo la lettura nel libro del profeta Isaia al capitolo 1 e versetto 24. Perciò il Signore degli eserciti, il potente di Israele, dice: guai! Nessun ascoltatore è in grado di distinguere quando il termine Signore è riferito al tetagramma, perdendo così l'aspetto che Yahweh che parla, cioè Cristo, e che si presenta come il padrone di ogni guerra. Poi troviamo anche un altro aspetto non positivo nelle Bibbie che non traducono il tetragramma con il termine eterno. In molti passi, come nel libro della Genesi al capitolo 2, abbiamo già fatto notare che troviamo perfino invertito l'ordine dei nomi, e questo più di 200 volte. Infatti la Nuova Riveduta traduce Dio il Signore invece, come dovrebbe essere, il Signore Dio, così com'è in ebraico, cioè Yahweh Elohim. Questo modo di procedere nel tradurre non mi sembra molto corretto. Queste precisazioni non sono tese a voler disprezzare una traduzione a discapito di un'altra. Anzi, siamo grati a tutti coloro che hanno tradotto la parola di Dio. Ma vogliamo solo mettere in evidenza che le Bibbie che non hanno fatto la distinzione dei tre nomi principali della divinità di Israele e dei cristiani non rendono merito al testo ebraico e impediscono al credente di comprendere aspetti importanti della propria fede. E questo lo dico per esperienza, perché per 35 anni non avevo mai sentito studi di questo genere che mi permettessero di comprendere la presenza costante di Cristo nell'Antico Testamento. Avevo sentito studi che mettevano in evidenza una certa teofonia, o al massimo una cristofania, ma nessuno metteva in risalto che il tetragramma, cioè Yahweh, fosse Cristo. Parliamo ora di un'altra traduzione del termine Dio e che troviamo nelle nostre Bibbie, termine che può sfuggire alla nostra attenzione. Se avete notato, cari ascoltatori, nella Bibbia troviamo il termine Dio scritto a volte con l'iniziale minuscola, altre volte con l'iniziale maiuscola. In questi casi il termine ebraico può essere sia Elohim sia El. El esprime sia la forma abbreviata di Elohim sia il concetto di divinità, cioè di divino. Ciò sta a significare che questa parola non è sempre e necessariamente riferito alla divinità di Israele e dei cristiani. Come esempio, leggiamo nel libro dell'Esodo al capitolo 7. L'Eterno disse a Mosè: «Vedi, io ti faccio come Dio per il Faraone, e tuo fratello Aronne sarà il tuo profeta». L'Eterno disse a Mosè che lo aveva costituito come un El, cioè una divinità per il Faraone. Troviamo la parola Dio in minuscolo anche in questo ordine da parte di Yahweh nel Salmo 81. «Ascolta, o popolo mio, e ti ammonirò. O Israele, se tu mi ascoltassi, non vi sia in mezzo a te alcun Dio straniero e non adorare alcun Dio forestiero». Dunque, l'Eterno ordina al popolo di Israele di non avere altre divinità. Questo comandamento è ripetuto decine e decine di volte. Ma se c'è un peccato che commise ripetutamente il popolo di Dio, fu proprio questo. Per molti anni, inoltre, mi era sfuggito, ma la parola Dio con la minuscola si trova anche nei 10 comandamenti assieme al tetragramma e ad Elohim, ed esattamente al secondo comandamento. «Non ti prostrerai davanti a loro e non le servirai, poiché io, l'Eterno, cioè Yahweh, tuo Dio, cioè Elohim, sono un Dio, cioè El, geloso, che punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano». L'Eterno sta rivendicando esclusivamente per sé ogni attributo dato alla divinità, perché Egli è un Dio, cioè un El, geloso. Occorre anche aggiungere che la parola El sta a significare una divinità che non è il vero Dio, un Dio che non esiste o un non Dio. È ciò che afferma Mosè nel suo cantico nel libro del Deuteronomio. «Hanno sacrificato a demoni che non sono Dio, Eloah, a dei Elohim che non avevano conosciuto, a dei nuovi, apparsi di recente, che i vostri padri non avevano temuto. Come arricchisce la parola di Dio quando è tradotta bene. Solo facendo una certa distinzione possiamo cogliere certe sfumature. Leggiamo per esempio nel Salmo 77 questa espressione. Dio, la tua via è santa. Quale Dio è grande come Dio? Solo in questa preghiera troviamo tre volte la parola Dio, ma con significati diversi. Infatti il salmista riconosce che non vi è divinità grande come l'Elohim, cioè come la divinità di Israele. Siamo noi in grado, cari ascoltatori, di cogliere il significato della parola di Dio? Forse, ma solo se conosciamo le differenze che ci sono nei nomi tradotti correttamente. Alla luce di queste considerazioni, certe preghiere nei Salmi hanno un nuovo significato. L'Eterno è la mia forza e il mio cantico ed è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio, io lo glorificherò. È il Dio di mio padre, io lo esalterò. I traduttori fanno salti mortali per rendere chiaro il testo ebraico, ma mantenendo la parola Dio si trovano in grande difficoltà. In ebraico invece leggiamo: questo è il mio El, cioè il mio Dio, e loderò l'Elohim, cioè la divinità di mio padre. Del Salmo 136. Celebrate l'Eterno, perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno. Celebrate il Dio degli dèi, perché la sua benignità dura in eterno. Celebrate il Signore dei Signori, perché la sua benignità dura in eterno. Colui che solo fa grandi meraviglie, perché la sua benignità dura in eterno. Colui che ha fatto i cieli con sapienza, perché la sua benignità dura in eterno. Colui che ha disteso la terra sulle acque, perché la sua benignità dura in eterno. Colui che ha fatto i grandi luminari, perché la sua benignità dura in eterno. Colui che percosse gli egiziani nei loro primogeniti, perché la sua benignità dura in eterno. Colui che divise il Mar Rosso in due, perché la sua benignità dura in eterno. Colui che portò il suo popolo attraverso il deserto, perché la sua benignità dura in eterno. Colui che percosse grandi re, perché la sua benignità dura in eterno. Egli si ricordò di noi nella nostra bassa condizione, perché la sua benignità dura in eterno. Egli dà il cibo a ogni carne, perché la sua benignità dura in eterno. Celebrate il Dio del cielo, perché la sua benignità dura in eterno. Abbiamo ascoltato che il salmista invita a celebrare colui che solo fa meraviglie, il Dio del cielo, dopo aver nominato Yahweh, Elohim e Adonai. Per il credente israelita, l'Eterno, il Dio degli Dèi, il Signore, era una sola persona, era la divinità del cielo. Eppure non è solo, perché egli si riferisce a se stesso come Elohim, cioè Di al plurale. Come poteva esprimersi così il credente? Ma questo fa parte della nostra ricerca. Queste riflessioni hanno lo scopo di far comprendere che la scrittura usa una pluralità di termini per indicare lo stesso ed unico Dio. Se riusciamo a cogliere il senso distintivo esistente in seno alla triade Yahweh, Elohim e Adonai, termini risultanti da appellativi non sinonimi fra loro, con riguardo alla designazione personale della divinità, noi possiamo essere enormemente arricchiti dalla parola di Dio. L'Eterno la divinità di Israele e dei cristiani, volga il suo benevolo sguardo su di noi e ci dia di leggere la sua parola con la massima attenzione per cogliere non quello che noi pensiamo, ma quello che lui ha rivelato. Amen.